merda. Pino, secondo te, Pino, chi ascolta questa musica che cos'è? Il Ricchione. Ma come? È il gruppo preferito di Marco. Dai, sono gli Angels and Airwaves, non li conosci? Gruppo californiano, rock. No, no, l'ho sentito adesso. C'hanno un bel sound, un bel groove. Non ti piace, eh? No. Dai, no, sii sincero, no, di la verità. No, ma non mi dispiacciono neanche, è un gruppettino del cazzo. Ma perché? Quali sono i tuoi gruppi preferiti, Pino? Ragazzi, io continuo ad ascoltare i gruppi degli anni 70. E ti sei fermato lì praticamente? Cioè, per esempio ci sono gli Alter Bridge, sì, che non mi dispiacciono. Gli Under Bridge, quelli sotto il ponte. Ah, sì. Gli ex Creed. Gli ex Creed, sì, con un altro cantante. Ma non so, per esempio, gruppi nuovi che insomma, non so, preannunciano un bel futuro rock, ce ne sono, giovani. Sì, Leone di Lerni se fa un gruppo rock. Basta. Ricordiamo agli ascoltatori che siamo con Pino Scotto, che potete seguire ogni mercoledì, se non sbaglio, su Rock TV, è giusto? Al martedì dalle 14 alle 15 su Rock TV. Su Rock TV, che è il canale 100. Non lo so. Ma come non lo sai? 170 qualcosa, sì, di Sky dovrebbe. Penso, no, 700. Sky, 700 qualcosa. Ma poi di Sky. Andate su Sky e lo trovate. Sì, a cazzo. E sul web al mercoledì, sì, dalle 21 alle 22:30 su www.rockandrollradio.it. Punto it, perfetto. Se non andate su YouTube ce l'hai di materiale. Sì. Allora, volevo farti una domanda io che sono appena rientrato. Senti, ma tu cosa ne pensi dei Pooh, del loro quarantennio e dei loro figli? A proposito, vi faccio vedere una cosa. Sì, attenzione. Se è una busta, passamela. Attenzione, una lettera. Questo è il mio palmare per le date. Ah, ok. Un foglio. Madonna, ragazzi, cioè, non rispondi alla domanda sui Pooh? I Pooh? Allora, no, ma Pino, vogliamo sapere cosa pensi dei Pooh? Io approfitto. Sì. Sabato questo sono al Black Staff a Udine. No, ma volevo chiedere. Cioè, venerdì questo. I Pooh, cioè. È domenica e sabato a Milano, Zoe, compleanno di Pino Scotto. Perfetto, però volevamo sapere dei Pooh, cioè i Pooh, questo gruppo che ha procreato milioni di figli che sono ormai in televisione. Cioè, ognuno di loro ha messo in ballo un figlio a cantare, ce ne fosse uno, cazzo. Cioè, non ti piacciono i Pooh comunque? E poi gliel'ho detto a Robby, ho detto: Robby, ma tu che hai tante conoscenze, trovagli un posto in fabbrica a tuo figlio. Senti Pino, visto che tu sei un'autorità del rock, noi vogliamo sapere nella vita di tutti i giorni cosa è Rocco e cosa non è Rocco. Attenzione, sigla, grazie Pino. Lo Zodi 105 presenta Rocco non Rocco, divisione dei pani e dei pesci a cura di Pino Scotto. Rocco non Rocco. Rock and roll. Allora Pino, tu mi devi dire solo se queste cose sono Rocco o non sono Rocco. Ok, attenzione. Quindi è Rocco o non è Rocco. Siamo pronto? Via, il violino. Il violino quando lo suona Mauro Pagani è rock. La porchetta è rock. La porcona rockissima. Le mestruazioni non è rock. I tramezzini al tonno non è rock. Non è le rock. Mutande bianche non è rock. Gli stivaletti pelosi non è rock. Il cinquantino motorino è una figura di merda. Le prugne della California non mi frega un cazzo. Antonella Clerici non è rock. No. Gigi D'Alessio assolutamente no. Il narghilè è rock. La figa pelosa è rock. Il champignon rock. Gigi Andrea non sono rock. Il bidet. Basta vedere Andrea lì come si è messo a fare quello lì. Ma sto lì vestito da carabiniere, sto pappagone. Lì si torna al problema della neve a Napoli. Il whisky molto rock. Le pere non è rock. Il caprino è rock. I Ray-Ban rock. Manuel Arcuri rock. Il poker. Ma brutti ricordi. La pedicure non è rock. Andare a mignotte non è rock. Adriano Celentano è rock. Nicola Savino è un strunzo. Pino, ti vogliamo qua sempre, cioè possiamo assumerti? Ti prego, rimani qua con anche noi. Per via orale. Sì. Sei veramente il nostro idolo. Tu sai bene, te l'hanno riferito più e più persone, che noi da un po' di tempo a questa parte facciamo la tua imitazione. Sì, sì. Si chiama Pino Biscotto, l'hai conosciuto prima. Volevamo farti risentire una puntata di qualche tempo fa dove si parla anche della presunta non morte di Michael Jackson. E c'è, diciamo, un tuo pensiero su Michael Jackson e quello che ha fatto nella sua carriera. Ci colleghiamo con Pino Biscotto. Se vuoi il vero rock and roll, vai da Pino Biscotto. Pino Biscotto. Lui è veramente rock. Pino Biscotto. Pino Biscotto. Il tempio del rock and roll. È Pino Biscotto. Ciao, benvenuti. Benvenuti su canale musicale Rocco TV. Io sono Pino Biscotto per un'altra stagione fatta di musica rocco, fatta di buchi del fatti insieme al mio amico Gecko. Ciao Gecko! Ciao Pino! Sei stato in vacanza, Gecko? Sì, ho fatto una vacanza alternativa. Dove sei stato? A Canos di Puglia? No, sono stato... Ti sai che là che fanno il festival alternativo, no? No, sono stato a Bucinasco a infilare ombrellate nel c***o vecchio. Tu sì che sei rocco, ma poi la vecchia te la sei fatta? Eh beh, certo. Bravissimo, io negli anni 80 mi sono fatto 127 vecchie. Bello. Sì, ce l'ho ancora tutte nel bagagliaio. Grande, che la puzza di morto fa molto rock. Io non metto la prima gig, metto mano di composta, taglio di specchie. Vedi ste mani con i vermi che si muovono, è impressionante. È proprio rocco. Lo so che sono tanto rocco. Pensi che c'ho una chitarra elettrica nel c***o? Se mi chino la vedi? Dai Gecko, fammi una domanda, dai. Ciao Pino, ti seguo sempre su Rocco TV. Bravo. Sei troppo avanti anche perché persone sincere come te non esistono più al mondo. Porca puttana, è quello che dico sempre anch'io. Lo dico anche al parente quando dico che i soldi te li do. Se ti dico che te li do. E quello non mi ascolta mai. Pensi che sono un barbone, io sono pieno di soldi. Solo che ne ho così tanti che non so dove li ho messi. Pino! Sì! Che cazzo ridi, Gecko? Senti, molte persone sostengono che Michael Jackson sia ancora vivo. Tu cosa ne pensi che sei un vero rocco? Chi? Di chi stai parlando? Michael Jackson. Che cazzo lo conosce sto Marco Gesco? Chi cazzo l'ha mai vista Marco Gesco? Io sono 50 anni che faccio rock, a Marco Gesco chi cazzo lo conosce? Che essere morto, che piangeva, la gente che si ammazzava. Ma chi cazzo contava che quello un po' era femmina, un po' era uomo, un po' era X? Marco Cescon. E chi cazzo è Michael Cescon? Che c'hanno rotto i coglioni alla televisione con gli special. È morto, non è morto, è morto, non è morto. Ma vaffanculo a chi te è morto. Ma chi cazzo lo conosce? Tu lo conosceva Marco Cescon? No. E chi cazzo lo conosce? Che sicuramente quel buco del c***o non se lo guardava da solo, glielo guardavano in sei. E ci piaceva pure sto ricchione. No. Che schifo. Che prima era bianco, poi è diventato nero, poi azzurro. Ma vaffanculo, puffo di merda. Pino Biscotto. Se vuoi il vero rock and roll, vai da Pino Biscotto. Pino Biscotto. Misteriamo quello vero, Michael ragazzi, Jackson. Però c'è andato giù pesante. No? Tu noi, no, eh? Noi! Siamo noi! Michael Jackson è vivo o morto, secondo te? No, è vivo. È vivo? Sì. Anche tu la pensi così? Sì. Cioè, nel senso che ha fatto sta secondo manovra? Me, l'unica cosa che posso dire, sto ragazzo, secondo me ha fatto una vita di merda proprio. Questo cominciate dal padre, dalla famiglia di merda che c'ha. Io se avessi un padre così l'avrei scannato quando avevo 5 anni. Ma lui era un po' debole, insomma. Sì, sicuramente. E quindi solo te vivo ha messo in scena questa roba per guadagnare più soldi e sparire dalla scena. No, siccome era senza la lira, ha venduto già 4 milioni di copie. Porca miseria. Quello che volevo fare io, ho detto, per diventare un eroe del rock, sì? devi morire. Poi ci ho pensato e tu mi hai mandato a fanculo. Bravo Pino. Senti Pino, lascia i nostri ascoltatori con una massima, dai, una delle tue massime. La massima è sull'Italia. Sull'Italia. Questa è una cosa che mi è venuta in studio quando ho fatto l'ultimo disco, me l'hanno fatto filmare su una pelle della batteria e l'hanno attaccato al muro. L'Italia è un paese dove una mano lava l'altra e tutte e due si fregano l'asciugamano. È vero. Ma tu vedi un bel futuro per l'Italia e gli italiani o pensi che andremo sempre peggio? Secondo me purtroppo penso che andremo sempre peggio. Sì, eh. Bisognerebbe ricominciare dagli asili a costruire una nuova razza di esseri umani, perché questa si è fottuta da sola ormai. E tu? Io mi fotto gli altri, fanculo. Pino! Ragazzi, io proporrei un applauso collettivo al rocker numero uno italiano, Pino Ascolta! Torni? Grazie. Torni Pino? Sicuramente. Adesso seriamente dai un paio di date se qualcuno ti vuole venire a vedere sul tuo taccuino. Prendi il tuo iPhone. Il tuo iPhone portatile. Quando è che sei a Desio che è vicino a casa mia? Aspetta. Sì. Allora ragazzi, sì. Io ho cominciato il tour a fine marzo di un anno e mezzo fa, che è a Madonna, Noero, che tour hai? Ho fatto già quasi 160 date. anzi, per voi che mi state ascoltando, grazie a voi che siete venuti, che mi avete portato pure i soldi, grazie. Come? La prossima data, Pino, prossima parte data. Il compleanno. Allora, Black Staff a Udine. Quando? Il 9. Sì. Il 9 di ottobre. Giustamente. Sì. Il giorno dopo, Milano, lo Zoe, grande sì. compleanno di Pino Scotto che fa 60 anni. Grazie. Grande. Auguri. Grande Andrea Rock. Ciao, Andrea. Poi... vedo un cazzo. Il 15 sono all'Urban di Perugia. Sì. Il 16 a Castelletto Cerva al Coco Club in provincia di Biella. Il 17 Stone Age a Soave in provincia di Verona. 23 ottobre a Casteggio Thunder Revolution in provincia di Pavia. 24 Rockway Porta Potenza Piceno Macerata. E poi l'ultima data del tour, Rock on the Road a Desio il 7 di novembre. E poi andate a fanculo tutti, perché mi faccio un mese di vacanza, a dicembre vado in studio per il disco nuovo. Oh, bravo, è arrivato il malgioglio di Virgin Radio. Grande Andrea, bastardi, come state? Allora, Centauri, io sono Dingaccio. Allora senti Andrea, spara una cyber news qua subito a Pino Scotto. No, allora c'è da dire una roba. Ringaccio adesso torna, che si è già rotto una mano, poverino, anche a sto giro. Ma glielo vuoi dire tu che sei il suo collega di smetterla, che è un vecchio e non sa andare in moto? Ma infatti secondo me si deve occupare di rock, che è la cosa che sa fare meglio, come fa buon Pino. Però in maniera muta, perché anche il raggio fa un po' di danni. Senti Andrea, c'hai qualche domanda per il grande Pino Scotto? Io voglio chiedere a Pino, sì. Senti, ma tu, con sti stronzi qua, che cazzo c'hai da condividere? Le stronzate. Salutiamo ovviamente Pippo Palmieri in regia, il mago Wender, yeah! Fabio Alisei, Andrea Rock, il grande Pino Scotto. Rock and roll! Mi raccomando, non perdete l'appuntamento su Comedy Central e domani, no, stasera va in onda quella di ieri su MTV a mezzanotte. E domani quella di stasera. Quella di stasera è un casino, su MTV, così, però questa sera va in onda quella normale su Comedy Central. Marco Mazzoli! Grazie ai cameraman, grazie al signore anziano che ha tenuto in mano questa telecamera pesantissima. A Giba, a tutti i ragazzi dello Yed per stamattina. Ciao, grazie alla Cumpa di Viaturati. Rock and roll! Allo scotto! Alle modelle brasiliane di stamattina! Io voglio il numero di questa modella! Ho salutato tutti, grazie a tutti! A Ferruccio, Ferruccio! Grazie Ferruccio! A Frate Metallo! Ciao Pino! Frate Metallo, ma tornatela a convento, non ci cago un cazzo! Rock and roll!